Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. È uno dei capisaldi dell'armadio di ogni donna, ha influenzato usi e costumi di intere generazioni femminili e compie mezzo secolo. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, avete qualche minuto di tempo per indovinare l'accessorio protagonista dell'approfondimento della settimana di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi di nuove strategie di business per i supermercati e per il focus sui trend di monomania. Prima, come sempre, ci sono le notizie e curiosità della settimana. È ormai guerra aperta tra i giganti del lusso europeo e eBay. Pomo della discordia, la determinazione del colosso delle aste online ad ottenere da Bruxelles il via libera alla vendita di articoli di lusso. A causa delle norme sulla distribuzione selettiva, eBay è già stata condannata a pagare oltre 38 milioni di euro al leader mondiale del lusso Moët Hennessy Louis Vuitton. Colore rosso, in tutte le sue sfumature, volumi medi con forme basse e allungate, dominio della pochette e grande ritorno del bauletto. Questi i principali trend per la borsa da donna della stagione autunno-inverno 2009-2010. Girovagare senza la paura di perdersi è quanto consente di fare Backtrack, navigatore satellitare a misura d'uomo. Utile per il trekking, lo sci e lo shopping, il dispositivo indica sempre distanza e direzione dal punto di partenza memorizzato. Italiani sempre più grassi e bocciati in stili di vita salutari. Fumano, fanno pochissimo sport e consumano alcol con modalità a rischio. È l'istantanea delle abitudini del bel paese, secondo il rapporto Osserva Salute 2008. Una custodia per il computer che si trasforma in un morbido cuscino. Napbook è stata pensata per chi non si separa mai dal proprio portatile. Da oggi potrà schiacciare un pisolino al parco o in metro, evitando il rischio di farselo rubare. Per ora, in vendita solo all'Apple Store di Reykjavik. La borsa della spesa. La shopping bag di questa settimana è tutta dedicata alle signore. Celebriamo il compleanno di uno degli accessori principe del guardaroba femminile, un accessorio che ha rivoluzionato moda e costume. Stiamo parlando dei collan che quest'anno compiono 50 anni. You had plenty money 1922. Per gli storici della moda sono un capo controverso e rivoluzionario. Per le donne, uno dei simboli dell'emancipazione. Per gli uomini, l'antitesi della seduzione. Velati, coprenti, neutri, colorati, a rete, i collan compiono 50 anni. Inventati dal britannico Alan Grant nel 1959, che usò il già noto nylon, conquistano subito l'universo femminile per la loro praticità. Liberarono le donne da ghepier e reggicalze, accessori poco adatti ai pantaloni e soprattutto alle minigonne, che di lì a poco ne avrebbero consacrato il successo. Negli anni 60 della Swinging London, i collan rappresentavano la libertà che le gambe delle donne avevano tutta l'intenzione di conquistarsi per le strade del mondo. Un dinamismo rafforzato dall'impiego di un nuovo materiale rivoluzionario, la lycra, o licra all'italiana. Tessuto elastico e confortevole, perfettamente aderente, lanciato dal colosso americano DuPont. All'inizio degli anni 70, con l'avvento dei gambaletti al polpaccio e della calzamaglia spessa e nera lanciata da Yves Saint Laurent, i collan subirono un vero crollo a livello mondiale. Si ripresero grazie all'arrivo di quelli modellanti, quelli di rete e di pizzo. Negli anni 80 si trasformarono in piccole opere d'arte, ricchi di colori e stampe, abbinati con attenzione alle collezioni da tutti i grandi stilisti. Negli anni 90 il collan diventa coprente e morbido grazie all'uso della microfibra. Gli anni 2000 sono gli anni dell'incostanza, di forme e fortune alterne. E oggi di quale fortuna godono i collan? Lo abbiamo chiesto a un'esperta di moda e di stile, Cinzia Felicetti, direttrice di Elle.it. Eravamo abituati fino a qualche anno fa ad affrontare l'inverno un po' a gamba nuda, quindi con il rischio di geloni e sfumature violacee generalizzate. Diciamo che il collan sembra tornato, soprattutto sembra in piena rimonta, quindi con quotazioni altissime, tant'è che si è visto per esempio il ritorno proprio del collant legging, molto coprente, ideale per fare rapine in banca, ovviamente sto scherzando, comunque molto, molto anni 80, indossato proprio con tronchetti, scarpe stringate, molto aggressivo, perché l'idea è proprio quella di affrontare la crisi un po' da guerriere, e questi collant molto coprenti con la gonna corta sono, direi, perfetti. Quindi c'è un grande ritorno del collant coprente che addirittura in qualche maniera sconfina nel fuseau e fino alla declinazione in pelle o PVC, davvero grintosissima. Cavalli poi l'ha detto chiaramente, insomma, di questi tempi la seduzione molle, suadente, ammiccante sembra un po' una contraddizione in termini, un ossimoro sartoriale, quindi forse il collant coprente determinato che poco ammicca e molto protegge sembra la scelta più adeguata. Anche i pezzi classici, lo abbiamo appena sentito, godono di fortune altalenanti. Figuriamoci capi, accessori e colori che vengono continuamente reinventati ad ogni stagione. C'è chi però con 2 anni di anticipo va a caccia di tendenze per fornire alle case di moda, ma non solo, le dritte giuste. WGSN, società britannica leader nel settore, fornisce le sue previsioni a 3.000 clienti, tra i quali figurano marchi come Adidas, Coca-Cola, Bulgari, Diesel, Samsung, L'Oreal, solo per citarne alcuni. A Massimiliano Sarracino, direttore marketing e comunicazione Italia, abbiamo chiesto se e come la crisi che stiamo attraversando abbia influenzato l'attività di ricerca. Rispetto al passato notiamo che per le prossime stagioni ci saranno più tendenze, per cui anche più colori di tendenza, la stessa cosa nelle mise, nei capi, e quindi si va oltre i canoni che hanno caratterizzato poi la ricerca degli ultimi 10 anni, quindi anche a livello di città di ispirazione si va oltre le classiche Londra, Tokyo, Los Angeles, New York, Milano, Parigi, città come San Paolo del Brasile, come Cape Town, ma anche città dei paesi scandinavi, Stoccolma e Göteborg, Copenaghen su tutte, soprattutto nel settore dello streetwear, del denim, sono delle città che stanno offrendo diversi punti di ispirazione, non soltanto per l'Italia ma anche per paesi tradizionalmente avanti in questo settore come Giappone e Stati Uniti. Quindi il momento particolare, il momento che stiamo attraversando, produce paradossalmente un momento creativo importante e che farà sì che, insomma, le proposte delle prossime stagioni saranno molto varie e anche molto belle. Ci saranno tante cose nuove rispetto al passato. Cambiamo argomento con Luigi Rubinelli, direttore di Markup, parliamo di supermercati e nuove idee. Le aziende commerciali stanno cercando nuove soluzioni per affrontare la crisi. Ad esempio alcune stanno aumentando i loro servizi. A Latina opera il supermercato Gusto del gruppo Interdis. Non è un normale negozio perché dispone di una quantità di congegni elettronici da fare invidia all'MIT di Boston. Televisori al plasma per l'informazione e la pubblicità informativa, bilanci intelligenti, luci di nuova generazione per risparmiare energia, banchi frigo che ragionano sulle temperature e via dicendo. Ma ci sono altre novità in questo supermercato vicino al mare. Paolo Barberini, l'imprenditore, mette a disposizione ai suoi clienti più affezionati 15 auto smart gratis. Sì, avete capito bene, gratis per i primi 2 giorni. Dal terzo giorno Gusto chiede un contributo di 30 euro al giorno. È una piccola rivoluzione e contemporaneamente un grande investimento sia nell'acquisto del parco auto sia nella sua manutenzione. Ma tant'è, Barberini è soddisfatto come i suoi clienti. Di più, ha aperto nel supermercato una vineria, vendita e assaggi che va alla grande, e ormai contribuisce per il 7% al fatturato del negozio, che tocca i 17 milioni di vendite. È una bella risposta al cambiamento dei comportamenti di acquisto e di consumo. Quello della ristorazione è il nuovo business, anche per i supermercati. I radioascoltatori ricorderanno che Essere e Avere ha già presentato Italy di Torino, il supermercato ristorante di Oscar Farinetti e della Coop, che ormai veleggia verso i 90 milioni di fatturato. Altri esempi di questo tipo sono Iper, la catena di ipermercati che nel negozio di Milano ha uno spazio vineria con piccola cucina dove svolge lezioni di degustazione fra le più frequentate in città. Negli Stati Uniti la catena di supermercati Piggly Wiggly sta testando un nuovo formato. Ha infatti aggiunto appunto ai suoi locali la scuola di cucina Dream Dinners. I clienti entrano nel supermercato, acquistano i prodotti con lo sconto e entrano poi nelle cucine dove imparano a cucinare e producono i loro piatti preferiti, mischiando l'utile al dilettevole. È la nuova moda, alla barba della crisi e in favore della riduzione dei costi. Provate a vedere se trovate qualcosa di simile anche nella vostra città. Essere e avere. Bentornati in studio con Essere e Avere, seconda parte come sempre dedicata all'analisi delle nuove tendenze in compagnia di Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno. Oggi parliamo di monomania, una definizione con cui vogliamo indicare merci, prodotti, luoghi intorno ai quali si raccolgono consumi e comunità cosiddetti di nicchia. Dal collezionismo ai negozi iperspecializzati o monotematici, quando insomma il mono fa tendenza. Patrizia. Le monomanie sono passioni ossessive per oggetti che vengono caricati di fortissime valenze affettive e per questo sono oggetti che diventano un po' magici, per così dire, dei totem intorno ai quali ruota la vita dei monomaniaci. Per loro il possesso, l'appropriazione, diciamo, di questi oggetti, di prodotti a cui naturalmente attribuiscono un valore molto speciale, ha a che fare in definitiva con l'identità, con la loro identità. I negozi monotematici a cui facevi riferimento fanno leva proprio su questo, cioè sul meccanismo di identificazione con una certa merceologia e con il suo immaginario, e quindi diventano dei micro universi per fanatici. Faccio subito qualche esempio di settori diversi. Kiddyland a Tokyo, nel quartiere Omotesando, è letteralmente un paese dei balocchi e il punto di riferimento del merchandising e dei giocattoli per bambini, per teenager, ma anche per adulti collezionisti, appunto, nonché meta del turismo asiatico legato allo shopping. Si trovano infatti prodotti esclusivi in edizione limitata e sold only in Japan, venduti solo in Giappone. Sempre Tokyo, Candy Restaurant, in cui si mangiano solo caramelle. C'è uno chef che cucina, per così dire, i piatti e una grande tavola circolare allestita per la degustazione delle caramelle. Ancora a New York, Scandinavian Grace, qui passiamo al design, è il primo spazio dedicato unicamente ed esclusivamente a marchi e a designer scandinavi o nordeuropei moderni. Passando a Berlino, Goal, sul mondo del calcio, è un negozio, ma molto più di un negozio, in cui non si trovano magliette, bandiere, sciarpe, striscioni, eccetera, delle squadre, ma oggetti di natura diversa ispirati al mondo del calcio, quindi dai libri ai giochi a idee regalo e anche a pezzi d'arte. Il fil rouge, il collante dei frequentatori, non è l'essere sportivi o il tifo per una squadra, ma un amore molto più alto, diciamo così, per questo sport. È arredato come un campo da gioco ed è un piccolo ma completo museo, archivio, negozio dell'immaginario calcistico. Si trovano il Subbuteo tedesco, il leggendario Tip Kick e anche magliette vintage del famoso marchio Kickin Berlin. Ultimo esempio di consumo rituale e in questo caso elitario è Absinthe Depot, sempre a Berlino, nella Weinmeisterstrasse al 4, un negozio che vende esclusivamente assenzio, la bevanda maledetta legata al decadentismo francese e per questo appunto fortemente affascinante e carismatica. Un posto ombroso con musiche anni 30, arredato con mobili d'inizio secolo, offre ben 60 marche diverse esposte di assenzio, esposte su scaffali polverosi, ha un paio di tavolini dove naturalmente non si può degustare. Non solo negozi, la monomania impazza anche nei ristoranti dove regna sovrano un solo ingrediente. Dalle mozzarelle alle bistecche, passando per il miele, il rum e le cozze. Ai cultori del gusto i locali monotematici offrono un solo prodotto, declinato nelle forme più eccelse e accompagnato da pochi complementi di spalla. E attorno all'alimento sovrano ruotano spazi, arredi e atmosfera. E così troviamo il prosciutto bar, dove se non a Parma, il mozzarella bar Ubicà, in napoletano eccolo qua, che dopo Roma, Milano, Torino e Firenze è partito alla conquista di Londra, New York, Tokyo e Kuwait City. E poi la cacioteca, la macelleria con cucina, protagonista la fiorentina, la cotoletteria, la cozzeria, l'ostrica bar e la rumeria. L'ultima segnalazione arriva dal Giappone, dove riscuote grande successo la catena di ristoranti Mayokichi, che sta per Mayonnaise Kitchen. Dai primi ai dessert, passando per i cocktail, tutto all'insegna della salsa francese. Patrizia, sono formule di successo dal punto di vista commerciale o vivono della novità del momento e poi basta? Può certamente cambiare l'offerta di questi negozi iperspecializzati, nel senso che si sintonizza costantemente sulle tendenze emergenti, ma il successo delle monomanie si spiega perché l'ipermerce, oggetto del desiderio, è generata da una fascinazione molto profonda, come si diceva, impatta sull'identità delle persone, che crea un legame tra il soggetto e un determinato oggetto prodotto, che è un legame feticistico, nel senso che l'oggetto non è più solo se stesso, ma diventa qualcos'altro, rappresenta molto di più della sua vera natura e quindi è una presenza nella vita di chi lo possiede. Quindi i negozi pensati per intenditori, per fanatici di un'unica tipologia di prodotti, e qui penso a Giant Robot Store di New York per le subculture pop asiatiche, ma anche all'arte di offrire il tè di Milano sul mondo del tè, oppure tornando a Berlino a Intveld Schokoladen, un cacao caffè sul mondo del cioccolato. Quindi sono luoghi elettivi di supernicchia che declinano in infinite variazioni in termini di offerta un unico tema. In genere, questa è la cosa interessante, gli stessi gestori sono monomaniaci e usano il punto vendita come un hub, come uno snodo di una community che di solito ha anche una versione virtuale, forum, blog, riviste online, eccetera. È molto interessante il caso di Rental Showcase di Tokyo, che è un nuovo format di retailing fatto così. Immaginate file sconfinate di piccoli box trasparenti che contengono dei curiosissimi mix di oggetti selezionati dai rispettivi proprietari che li affittano per esporli, a volte scambiarli e anche venderli. Questi box sono dei micro negozi, ma sono soprattutto la rappresentazione delle stanze e delle ossessioni di questi illustri sconosciuti, che in questo spazio molto nuovo, molto interessante, ricreano un paesaggio multiforme di monomanie, tutte concentrate. Veri e propri oggetti di culto, i vinyl toys, art toys o designer toys, sono moltissime le definizioni per questi pupazzi da collezione diventati dei veri e propri oggetti d'arte. Possono costare poche decine o centinaia di euro. Per entrare in questo mondo abbiamo bisogno di una guida, il nostro ospite di oggi, che è Fabrizio Janzi, fondatore di Urban Toys, primo store in Italia esclusivamente dedicato alla vendita e alla distribuzione di art toys. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Quali sono i pezzi più richiesti? Ci può fare qualche nome? Allora, diciamo che le cose più richieste sono ovviamente i giocattoli di Doggy Doggy, il nostro Simone Legno, che oltretutto è anche romano come il negozio. Poi ci sono le Ugly Doll, che sono in italiano le bambole brutte, che vengono fatte da David Howard e la sua ragazza coreana Sanmin. E poi ci sono i giocattoli Do It Yourself, che sono, diciamo, dei supporti bianchi come le vecchie tele, dove gli artisti o chiunque può mettere la propria mano dipingendo e facendo il giocattolo come vuole, visto che questo tipo di giocattoli non è legato a un cartone o a un film, ma sono pura espressione, diciamo, di design. Qual è il profilo tipo del vostro cliente? Diciamo, mediamente le persone sono ragazzi, diciamo, dai 20 ai 35 anni, perciò diciamo bambini adulti come me. Ci sono delle variazioni dove ci sono anche persone più grandi, anche di 50 anni, avvocati, che li comprano esclusivamente per tenerli a casa come oggetti di design sui propri mobili. E poi ci sono anche ragazzi più piccoli di 14 anni che magari sono più legati al writing e ritrovano in questi giocattoli un stile diverso, diciamo, di fare design o street art. Quali sono i paesi, i mercati di riferimento per questi oggetti? In primis il Giappone, ovviamente che da sempre ha una cultura diversa da quella di tutto il mondo nei confronti dei giocattoli. Secondo è l'America, che ha seguito di passo il Giappone, e poi ovviamente c'è la Cina, che ormai sta dappertutto, anche perché è il produttore al 99% di tutti i giocattoli che comunque arrivano sia dal Giappone che dall'America. Se dovesse riassumere quali sono gli elementi che colpiscono, perché un oggetto del genere piace, perché diventa collezionabile? Allora, diciamo che l'oggetto è collezionabile prima di tutto perché è legato ad una tiratura limitata. Oltre a questo, i designer toys, come dicevo prima, non essendo legati a niente di conosciuto, sono un amore a prima vista. Li guardi e ti piacciono e basta, solo questo. Grazie a Fabrizio Janzi per essere stato con noi. Grazie a voi. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Pulse Valley in Oklahoma, Stati Uniti, su Monomanie dintorni? È il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Alessia Zampano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Una passione privata, i cui protagonisti sono proprio i designer toy di cui parlavate con l'ospite, può diventare un business. Succede in questa sperduta cittadina del Midwest, che è sede del primo e ad oggi unico museo di designer toy e di action figure. Si chiamano così quei modellini che riproducono in scala i personaggi di fumetti, di film, di serie televisive, cartoon e via dicendo. Tutto ha avuto inizio quando Kevin Stark, un disegnatore di fumetti nonché il proprietario di una delle collezioni più vaste al mondo, proprio di toy action figure, ha trasformato in lavoro la sua ossessione da adolescente nerd. Nel 2000 infatti ha convinto la municipalità della piccola cittadina dell'esigenza di un'attrazione turistica, ha esposto il suo progetto e il museo è diventato realtà nel 2005. Ed è stato proprio come se improvvisamente la camera di un ragazzino si fosse trasformata in una galleria. La collezione viene costantemente aggiornata, arricchita con pezzi inediti, a volte unici, e il museo mette poi a disposizione una sorta di camera dei supereroi in cui i bambini possono giocare a trasformarsi nel loro eroe preferito. Oltre ad essere diventato un luogo di valorizzazione e promozione del lavoro di artisti e autori locali di comics e di cartoon. Dal giorno della sua apertura il museo ha totalizzato più di 40.000 visitatori provenienti da tutti gli Stati Uniti e non, insomma numeri di tutto rispetto per una realtà così defilata. Grazie Alessia, magari chissà abbiamo fornito uno spunto per qualche nostro ascoltatore. Patrizia, siamo in conclusione: dalle merci di culto a quelle legate alle manie personali fino ai consumi ossessivi, lo abbiamo sentito, questa tendenza ha molte sfumature, molte chiavi di lettura, quale vogliamo sottolineare in conclusione appunto? Io direi proprio la dimensione intima, personale, privata di questi culti, che sono anche rituali di consumo o di possesso, come si è detto, nel senso che sono proprio dei mondi a parte, sostanzialmente incomprensibili da chi una monomania non ce l'ha o visti da fuori, semplicemente. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, l'appuntamento è per domenica prossima dopo il GR delle 13, il sabato alle 15 per la replica. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.